oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. E si parte, si torna qui in studio alle ore 13.02 minuti, si riprende al lavoro e siamo qui con Francesca Clementoni e il professor Francesco Campione per il nostro consueto appuntamento del mercoledì prandiale, se mi consentite il termine, oltre la crisi, due chiacchiere assieme e qualche stacco musicale e una base bellissima con una ballad di John Coltrane. Benvenuti. Vamola, ecco, inizio così oggi. Ciao Will. Grazie. Io e i Franceschi sono contenti della base così molto languida. Ci piace. Allora, andiamo subito sul pezzo, visto che abbiamo poco tempo oggi, perché terminiamo qui 10 minuti prima. Esatto. Allora, l'altra puntata parlavamo di stato di crisi nella situazione di cassa integrazione e era arrivato un messaggio sulla linea, diciamo, di chiusura e avevo promesso che l'avrei letto dopo la chiacchierata, diciamo, via SMS con Andrea. Arrivò questo messaggio che dice: cosa fare con quelle aziende che, pur non avendone necessità, si affidano all'uso della cassa sfruttando il sostegno economico da parte dello Stato per incentivare il proprio guadagno, aprendo la forbice tra spese e guadagni? Solo perché hanno il vantaggio di avere nei propri organici una qualche figura preparata in economia che sappia sfruttare gli strumenti di giusta utilità statali, ma in un modo molto opinabile. Ci sono poi quelli che invece, non avendo conoscenza adeguata a riguardo, non riescono ad attingere a questi strumenti pur avendone magari diritto o bisogno. Cosa fare ai primi e come aiutare i secondi? Diciamo che qui andiamo un po' fuori dalle nostre competenze, però lascio parlare te. Lasci parlare a me, così la pesca è mia. Certo, scusa, se no che ti ospito a fare. No, io penso semplicemente questo, che il quesito è un quesito che non va posto a uno psicologo. Io non saprei come rispondere né alla prima né alla seconda delle due domande. Dal mio punto di vista posso dire che io incontro spessissimo persone che lamentano questo con un grande senso di ingiustizia. Cioè, quando per esempio si sente raccontare dalle persone che noi seguiamo, il servizio Primo Maggio, qualche volta si sente raccontare di aziende abbastanza solide, floride, almeno nell'apparenza, secondo i parametri economici normali, che utilizzano la cassa integrazione, e ci sono persone in cassa integrazione che se ne meravigliano e lo vivono come un senso di ingiustizia, cioè qualcosa che determina precarietà. Non so dire se questo fenomeno sia un fenomeno tanto diffuso, né come si fa nel mondo del lavoro, perché la richiesta è una richiesta, come dire, che bisogna secondo me girare a un sindacato, a qualcuno che in qualche modo rappresenti gli interessi dei lavoratori e che possa inserire qualche elemento di contestazione della cosa, perché apparentemente sembra una cosa illegale, o come dice il nostro interlocutore potrebbe essere anche apparire come legale se viene manipolata da un certo punto di vista ecco, però l'unica cosa che posso dire io è che le persone che si sentono di essere in quel trattamento hanno un senso di ingiustizia doppio, perché sono in cassa integrazione quando non dovrebbero esserci. Mentre se ci sei, che dovresti esserci perché c'è una reale crisi della tua azienda, è ovvio che stai male, devi sottostare a una situazione che sia psicologicamente che umanamente è negativa, però come dire, c'è uno stato di necessità. Dove invece questo stato di necessità non viene riconosciuto, il senso di ingiustizia può essere veramente esasperato. Bene Francesco, volevo un attimo andare fuori tema per poi rientrare nel tema del lavoro. Voglio andare fuori tema perché lunedì 27 comincia qualcosa e volevo ritagliare uno spazio anche all'interno della nostra trasmissione, perché ha un senso, è collegato diciamo in un qualche modo a filo doppio con anche quello che stiamo portando avanti con la trasmissione, quindi ti direi di raccontare che cosa inizia da lunedì 27. Sì, da lunedì 27 noi, come suppongo che tu ti riferisca alla iniziativa della nostra associazione, che è l'associazione Rivivere, che dopo al quinto anno di una serie di incontri culturali, l'associazione Rivivere è un'associazione che fondamentalmente ha due scopi: lo scopo di aiutare le persone che hanno subito un colpo mortale e devono rivivere, e l'altro scopo è l'umanizzazione della medicina. Per quanto si riferisce al primo scopo e anche al secondo, noi abbiamo anche sia un'attività clinica, l'attività di aiuto psicologico gratuito alle persone in lutto e alle persone che devono che perdono il lavoro o che rischiano di perderlo, e un'attività culturale, perché noi pensiamo come associazione che senza una maturazione del contesto culturale nel quale noi inseriamo gli elementi di solidarietà, perché il nostro intervento è un intervento di solidarietà, di aiuto alle persone che subiscono il lutto o che perdono il lavoro, senza un intervento di tipo culturale sul contesto, sui contesti, noi non ci riusciamo male a svolgere il nostro lavoro clinico. Quindi noi facciamo da sempre un lavoro culturale, anche l'associazione Rivivere è un'associazione culturale fondamentalmente. Per quattro anni abbiamo affrontato la tematica dell'educazione sentimentale, perché siamo partiti dall'idea, dall'osservazione che i sentimenti hanno una loro saggezza, ma perché abbiano la loro saggezza bisogna che ci sia un'elaborazione. Non hanno saggezza di per sé i sentimenti, perché un sentimento di per sé è un sentimento, non è né saggio né poco saggio, no. Per cui bisogna lavorarci. Si presenta, appunto, viene. Si sente. Mi è venuto, dice ti amo, dice ma posso produrre bene o male, posso produrre cose belle o cose brutte. Per cui abbiamo cominciato con l'educazione sentimentale sull'amore, che è quello che è indispensabile, che sarebbe indispensabile a tutti per stabilire legami affettivi che poi possano essere duraturi e meno sottoposti alla crisi, ai rischi di crisi. Abbiamo continuato col sentimento della violenza, che è un sentimento come dire, molto legato alle tragedie della terra, per esempio alla guerra, per esempio alla gestione dei rapporti interpersonali, per esempio al femminicidio, tanto per dirne una cosa di cui abbiamo parlato. Poi abbiamo dedicato un intervento al lutto vero e proprio, al sentimento del lutto, e quest'anno, sulla base dell'esperienza, abbiamo pensato che bisognava cambiare qualcosa, perché ci è sembrato che l'intervento degli anni precedenti fosse un po' fatto un po' troppo dall'alto, come se cioè noi ci volessimo proporre come chi in qualche modo si propone come soggetto protagonista di un'elaborazione. Per cui quest'anno invece abbiamo pensato di partire dalla vita quotidiana e di vedere nella vita quotidiana quali sono gli aspetti più importanti della crisi e della necessità di rivivere nella crisi, e quindi abbiamo messo in piedi un'iniziativa che ha 9 incontri, e c'è già stato il 27 il primo incontro sulla fine di un amore e come si affronta la fine di un amore, cioè sulla perdita di una delle cose più preziose della vita. Continueremo con la diversità, ci sarà un incontro sull'invidia, ci sarà un incontro sulla solitudine, ci sarà un incontro sulla vecchiaia, ci sarà un incontro sulla malattia, eccetera. Non ve li elenco tutti, però se volete potete consultare il nostro sito www.clinicacrisi.it, dove troverete tutto il programma. Intanto ci riscrive chi aveva mandato, Mimmo a proposito, che aveva mandato il messaggio dicendo: scusate, non vi ascolto spesso, non sapevo quindi che il professore fosse uno psicologo, bensì un economista. Grazie comunque per la risposta, il profilo psicologico descritto rispecchia lo stato d'animo delle persone che conosco in tali situazioni. Quindi ci manda questo riscontro Mimmo, il nostro ascoltatore. Volevo fare un complimento al professore perché accidenti, è polivalente da economista, psicologo, questi sono grandi complimenti, attenzioni insomma che arrivano dal nostro pubblico. Certo. No, dipenderà forse dal fatto che prima viene la psicologia e poi viene l'economia. Sicuro, o almeno così dovrebbe. Intanto ringraziamo Mimmo. Grazie, esatto, Mimmo. Grazie. Ringraziamo Mimmo. Nell'annunciare il tema di oggi, che rimaniamo nel tema sul discorso del lavoro, e passiamo dalla cassa integrazione al lavoro invece, ai troppi lavori, a persone che per campare, per vivere, devono oggigiorno impegnarsi in 3, 4, 5 lavori diversi per riuscire a mettere insieme il gruzzoletto che gli permette la sopravvivenza. Ricordiamo i nostri numeri, così intanto mentre c'è lo stacco musicale pensate, scrivete, fate, brigate. 333 180 94 94 per i vostri sms oppure messaggi WhatsApp. E invece per il telefono fisso, per essere in diretta con noi a Oltre la Crisi, 051 34 64 58. Diciamo che c'è anche una mail attiva, amici di rivivere @gmail.com. Adesso li abbiamo dati tutti. E allora musica. Vai. tempo per pensare ve ne abbiamo lasciato a sufficienza. Torniamo assieme 13:17 minuti, Radio Città Fujiko, Oltre la crisi, insieme a Francesco Campione, il nostro professore, per passare un'oretta assieme fino alle 14. Oggi un pochettino prima vi saluteremo, però insomma l'intensità sarà sempre comunque importante. Abbiamo iniziato con degli sms che abbiamo riportato dalla settimana scorsa fino ad arrivare al tema odierno. Sì, prima una parentesi, perché ci è arrivato un messaggio nel frattempo che chiede: caro Francesco, quando tratterete un argomento sulla sessuale bella Willy, mi sembri Willy, sulla sessuologia, come spieghereste il desiderio di sottomissione da parte dell'uomo verso la donna? Questo è il messaggio che è arrivato, quindi. Ma direi che il tema è uno dei temi più critici, quindi direi che prima o dopo lo tratteremo. Siamo partiti dai temi più di attualità della crisi, ma non c'è niente come certo sesso che mette in crisi. Quindi lo tratteremo, e per quanto si riferisce alla domanda specifica, è ovvio che bisogna inserirla in un contesto che non è quello di oggi. Quindi nel momento in cui ci arriviamo, preghiamo il nostro interlocutore di rifarsi vivo e di rifare la domanda. Perfetto. Perfetto, didascalico ma molto preciso. Benissimo. Allora, ritorniamo in topic o in tema, che dir si voglia, e parliamo di crisi, sul stati di crisi esistenziale, di disagio esistenziale per quelle persone che sono sempre più in crescita, che per campare, non dico per fare miliardi, per campare, devono dedicarsi a più lavori contemporaneamente, magari molto diversi tra loro. Certo, allora questo dal punto di vista dello psicologo è un tema estremamente interessante, perché contiene due o tre dimensioni che possono essere approfondite con grande profitto. La prima dimensione è: c'è chi sostiene che quando uno fa molti lavori si trova in una dimensione di multitasking e diventa più intelligente. Oppure, per fare molti lavori. Già, scusa se ti interrompo un secondo. C'è da dire che ogni lavoro già di suo è multitasking. Sì. Basta, scusa. Dunque, scusa l'interruzione. Tranne i lavori ripetitivi e monotoni, che sono senza tasking. Zero tasking. No tasking. No tasking, bravo, no tasking. D'accordo? Ma io adesso, come dire, stavo elencando le dimensioni del problema. Allora, la prima dimensione è la seguente, è quella che dicevamo. C'è chi sostiene, c'è una certa ideologia che sostiene che per fare tanti lavori bisogna essere molto più intelligenti, perché implicano multitasking, la capacità di essere in una situazione in cui si fanno tanti compiti, tante cose, e che alcuni dicono che si diventa anche più intelligenti. Quindi ideologicamente si potrebbe pensare che si tratti di una cosa buona, in realtà. Da un'altra parte c'è chi sostiene che fare tanti lavori vuol dire farli tutti male, e quindi significa accumulare una quantità di frustrazioni che prima o dopo ti fanno scoppiare. Nel senso che tu, per esempio, non puoi assolutamente, facendo tanti lavori, difficilmente tu facendo tanti lavori e inevitabilmente facendoli tutti abbastanza maluccio, non puoi contare sulla gratificazione del compimento, che è una delle gratificazioni tipiche del lavoro. Cioè, una delle cose buone del lavoro è che uno deve fare una cosa, quando la porta a termine dice: oh, che bello che ho portato a termine quella cosa là, l'ho compiuta, d'accordo? Cioè, il senso di compiutezza di un compito è una delle cose più soddisfacenti della vita, no? Qui questo problema, questa dimensione, questo vantaggio non c'è. Anche perché, mi permetto di aggiungere, tu dici una teoria, una delle teorie è quella che facendo tanti lavori li fai maluccio, ma anche se sei una persona che riesce per qualche motivo a fare tanti lavori, a farli benissimo, il problema è che quando hai il compimento di uno, hai già la testa è già impegnata al non compimento degli altri, quindi comunque c'è la frustrazione, certo, sia nel bene che nel male. Certo, però bisogna dire anche un'altra cosa, che ci sono quelli che lo preferiscono stare in quella situazione. Perché? Perché l'alternativa, allora, se l'alternativa in una cultura è o stare sempre fermo in un posto, fare sempre la stessa cosa come un organo del corpo, che non dico quale, fare sempre la stessa cosa, quindi nella più completa monotonia, senza il cuore, nella più completa monotonia e in una ripetitività senza creatività, ci sono tanti giovani che preferiscono stare in Germania, dove ci sono tanti di questi lavori che te li buttano dietro, piuttosto che stare in Italia e cercare un lavoro fisso, sempre uguale. Bisogna tener conto di questo, perché c'è, cioè, come dire, io penso, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista poi della crisi, di cosa può mettere in crisi e fino a che punto mette in crisi, credo che ci siano persone che lo preferiscono, non perché sia effettivamente preferibile, ma perché tra le due alternative a disposizione nella nostra cultura, per chi vuole essere più libero, è preferibile fare molti lavori piuttosto che farne solo uno monotono. Anche perché, e quelli che hanno qualche stato di crisi, no, l'hanno scelto. No, aspetta, no, invece secondo me possono andare in crisi anche loro, perché possono averlo scelto per essere più liberi, ma non è che uno che sceglie di essere libero poi ci riesce facendo molti lavori a essere libero. Magari deve lavorare in continuazione anche la notte senza potersi fermare mai, e libero non è, si illude di essere libero. Cioè, questo è un punto. Allora, l'ideale quale sarebbe dal punto di vista umano? L'ideale dal punto di vista umano è che il lavoro fosse un lavoro, il proprio lavoro, quello che ti rappresenta, e allora ne puoi fare uno. Ma un lavoro che rappresenta una persona ricca è un lavoro ricco, non è un lavoro monotono. Nessun lavoro monotono rappresenta una storia di vita. Per essere rappresentato una storia di vita, il lavoro deve essere un lavoro adeguato, un lavoro, per esempio, il lavoro intellettuale è chiaro che è più adeguato rispetto a un lavoro manuale puramente esecutivo, mentre un lavoro artigianale, per esempio, può essere più rappresentativo nel caso che una persona sia una persona che abbia, per esempio, una buona manualità e la cui idea del mondo, lo scopo nel mondo, nel mondo è di costruire oggetti che siano simbolici della sua storia, della sua persona. Si possono fare anche delle scelte comunque, o come può capitare, parlo sempre per esperienza personale, che una persona può avere dei disagi sul lavoro, però costretto a farlo per ovvi motivi, e si crea nel tempo che gli rimane, tanto o poco che sia, il momento in cui può esprimere creatività, passione, voglia e tante altre realtà che lo appagano molto di più. Quindi il lavoro in questo caso diventa, sempre fatto con una certa serietà, responsabilità e chi più ne ha più ne metta, sicuramente frustrante, però è quella cosa che ti dà poi una determinata sicurezza per il resto, diciamo così, del tempo che puoi impiegare in un altro modo. Esattamente. Qui il problema qui è, come dire, si chiariscono tutte queste dimensioni molto complesse. Ce ne sono diverse. Sì, ce ne sono diverse, ma si chiariscono se si specifica bene qual è il significato del lavoro per ciascuna persona. Perché le generalizzazioni sono negative. Bravo. Sono negative di per sé, perché ciascuna persona attribuisce al lavoro un certo significato, e un certo lavoro, per esempio, se una persona attribuisce al lavoro il significato di costruire un mondo di oggetti che lo rappresentino, una persona che lavora sempre per altri, senza determinare mai lo scopo del lavoro, è alienata comunque, sia che sia un lavoro fisso, sia che sia un lavoro con tante dimensioni. è arrivato un SMS. Sì, ci facciamo un sorriso insieme ad Andrea, che ci segue anche oggi, e dice: fatti non foste per viver, puntini puntini puntini, e tra parentesi, questo per il prete, quindi sei prete anche oggi. No, quello è Dante, non è un prete. No, questo per il prete. Sì, ma l'agitazione è per i poeti, non per i preti. No, non è vero. Appunto. Perché... chiamiamo le cose col suo nome. Ha detto che avremmo fatto due risate. Mentre per l'off topic, cioè quella richiesta che era arrivata un po' fuori tema, scrive: Andrea, a me piacciono le donne più alte di me, quindi c'è anche lui. Nel mio caso sarebbe un problema. Sì, esatto. Beh, nel caso di Willy sarebbe un grosso problema. Invece per te, Andrea... Quello è il contrario, cioè mentre la domanda era sulla crisi da sottomissione, certo, qui questo sarebbe la crisi. Vuole essere sottomesso dall'altezza, dalla statura. Beh, vabbè, direi proprio che... Beh, buona caccia, cioè nel senso che non la vedo come una problematica. È io però non mi avventurerei no troppo. infatti no, ma era per fare due risate, perché oltre la crisi è anche una risata insieme, certo, un sorriso insieme. Un giorno secondo me dovremmo parlare della funzione del riso, non del riso scotti, sì, anche secondo me. Ma del sorriso, sì, beh, sì, anche sì. Il risotto non è male, eccolo, hai già mangiato, Will. Infatti no, ma infatti era interessante per introdurre poi anche quell'off topic lì. Va bene, musica, pubblicità, che... poi torniamo, esatto, in diretta. Aspetta, io ricordo i nostri numeri, perché vorremmo che ci aiutaste raccontandoci: fate più lavori, conoscete qualcuno che fa più lavori, raccontateci. C'è un po' qualcuno di... soddisfatto di fare tanti lavori? C'è qualcuno insoddisfatto? Perché raccontateci le vostre storie, che così ci aiutano a animare la conversazione. 333 180 94 94 per WhatsApp e SMS, 051 34 64 58 per il telefono fisso e stare in diretta con noi. A tra poco. Abbiamo fatto uno scherzo, siamo ancora qui, siamo in diretta, torniamo assieme. La pubblicità l'abbiamo scalzata a calci perché vogliamo chiacchierare insieme a voi. I numeri ve li abbiamo già detti, vi abbiamo lasciato il tempo per meditare. Noi torniamo intanto a chiacchierare insieme al professor Francesco Campione. Intanto io volevo augurare ad Andrea un paradiso di ragazze svedesi di almeno 1,85. Così guarda, è felice, insomma è un buon segno. Beh, svedesi, norvegesi, danesi, mica solo perché sono svedesi. Vatus. Vabbè, possiamo tornare al nostro lavoro. Ma anzi, uno non può neanche fare una gag. Prende anche del razzista. Non ho parole, va bene. Andiamo avanti, facciamo finta. Tagliamo, cut. Tagliamo questo pezzettino. No, ma invece sono contento io che c'è in questa radio anche un aspetto goliardico. Beh, figurati. È un aspetto casermicolo, lo chiama così lei, sai. Lo chiama in questo modo. Goliardico è un altro modo. È l'anima, la goliardia. Qua dentro se ogni tanto scivola nella caserma becera. Però cerco, io ci provo in tutti i modi ad arginare. E vabbè. Dicevamo, eravamo rimasti a chi fa più lavori per scelta e chi fa più lavori invece per necessità. Ne vogliamo parlare un attimo? No, allora, sì, ne parliamo. Allora, il problema è il lavoro che fai in generale corrisponde a quello che vorresti fare e a quello che avresti bisogno di fare, oppure il lavoro che fai è un lavoro che ti aliena? Perché secondo me la domanda bisogna farsela per tutti i lavori. Fatta, applicata a questo lavoro, cioè al lavoro multiplo, diciamo così, sì, no? Applicata al lavoro multiplo, secondo me si può riflettere sul fatto che nella stragrande maggioranza dei casi il lavoro multiplo da cosa aliena? Aliena dalla parte di sé che ha bisogno di sicurezza e di serenità e di stabilità. Aliena soprattutto dalla parte di sé che ha bisogno di sicurezza, non aliena dalla parte di sé che ha bisogno di libertà. Questo pezzo l'ho perso, scusa, cioè non l'ho capito. Cioè noi abbiamo tante esigenze fondamentali. Due esigenze fondamentali sono l'esigenza di sicurezza e l'esigenza di libertà. All'esigenza di sicurezza corrispondono certi lavori, i lavori ben pagati, stabili, con un buon orizzonte, corrispondono all'esigenza dove non ci sono troppi conflitti, dove non si rischia tutti i giorni di perdere il lavoro. Quelli corrispondono all'esigenza di sicurezza. All'esigenza di libertà corrispondono altri lavori, i lavori vari, i lavori che ti portano in giro, i lavori che in qualche modo cambiano continuamente. Il fatto di avere tanti lavori non ti aliena dalla tua esigenza di libertà, no? Allora il problema è di vedere di volta in volta qual è l'esigenza più forte nel singolo lavoratore. Ho capito. Qual è l'esigenza più forte? Per esempio, appunto, ci sono persone che hanno più bisogno di essere liberi che di essere sicuri. Per queste persone lavorare all'americana, che appena non ti va te ne vai in un altro stato e appena ti licenzi e non ricominci, può essere un vantaggio. Per chi? Nelle persone in cui prevale l'esigenza di libertà. Naturalmente col prezzo che si paga se uno privilegia la libertà. Se uno privilegia la libertà non è che pretende di essere sicuro, perché appena è sicuro si sente soffocare. No. Uh-huh. Chi privilegia l'esigenza di sicurezza invece ha bisogno di... sono altri tipi di lavori. Per esempio il lavoro fisso rassicura molto. Il lavoro in una situazione in cui tu dice guadagni meno a fare lo statale, ma il lavoro non lo perdi. Appena fai lo statale e il lavoro cominci a essere precario anche il lavoro di statale, la maggior parte delle persone vanno in crisi. Allora il problema, secondo me, è di vedere, non tanto generalizzando, ma di vedere di volta in volta. Per esempio ci sono anche dal punto di vista economico la possibilità di tante start-up, come si dice oggi, no? Sta nel fatto che tu sei elastico e che hai bisogno di essere elastico, per cui lasci e prendi il lavoro con estrema facilità, perché non ti aliena da una parte importante di te, anzi ti conferma una parte importante di te. Se tu invece, cioè, quindi ogni lavoro, compreso quello multiplo, può essere più o meno alienante, a seconda della esigenza a cui corrisponde, a seconda dell'esigenza fondamentale del lavoratore. Poi si possono fare delle notazioni sociologiche, cioè si può dire la maggior parte delle persone andrebbe educata a essere più libera o andrebbe educata a essere più sicura? Cioè, perché qui c'è anche un problema di educazione, no? Se per esempio noi abbiamo educato tutti, come in Italia, a essere più sicuri, no? A essere protetti, a essere, c'è il familismo in famiglia, tu puoi sempre contare su qualcosa che non passa, così, eccetera. Se ci hanno educati così, saremo più così, la nostra identità. Se ci educano all'americana, dove invece, oppure alla scandinava, perché in Scandinavia, torniamo alla Scandinavia, in Scandinavia a 14 anni, in Svezia a 14 anni ti affittano una casa e ti mandano via di casa, che tu sia pronto o che tu non sia pronto. Se non muori ti fai un'identità di uno che non viene alienato da un lavoro multiplo, viene alienato da un lavoro stabile. Altra cosa è la considerazione dello stato di necessità economica. Perché lo stato di necessità economica... Lì volevo arrivare. Ecco, la tua domanda era volta a quello. Lo stato di necessità economica in che relazione è con gli aspetti soggettivi? Cioè, certe volte ci può essere una contraddizione. Nel senso che tutti... Io vorrei essere libera e quindi il mio lavoro ideale sarebbe quello che mi porta a svolazzare farfallinando da un fiore a quell'altro. Il problema è che non campo. Ma se nel tuo contesto quel tipo di lavoro non si campa, tu sei costretta a scendere di livello e a metterti al livello della necessità. Cioè, allora, il problema che bisogna chiarire è che nel momento in cui tu puoi scegliere, vuol dire che tu hai superato lo stato di natura. Cioè non stai ancora sbarcando il lunario, come si suol dire. Non ti stai guadagnando la sopravvivenza. Questi discorsi sono validi quando siamo oltre la sopravvivenza. Ma se siamo prima della sopravvivenza, ecco, non sono più validi. Cioè diventa un lusso chiedersi che lavoro faccio. Quello che mi danno per campare. Allora, nel momento invece in cui ci chiediamo, dal punto di vista psicologico, quali effetti può avere un lavoro multiplo, non stiamo parlando di quelli che sono costretti a prendere qualunque lavoro, perché se parliamo di quelli siamo, come dire, la psicologia deve scendere di livello, è la psicologia della sopravvivenza, la psicologia dell'adattamento, non è la psicologia della realizzazione di sé, della costruzione della propria identità, della crescita personale, è un altro tipo di psicologia, cioè una psicologia, come dire, più dello stato di natura. E a sto punto... È arrivato un messaggio. Ah, scusate, perché avevo una precisazione. Proprio su questa questione dell'economico. Ho sempre lavorato a più progetti contemporaneamente, anche se tutti attinenti a un'unica area, decisamente articolata. Oggi, per necessità e curiosità, mi divido tra due lavori, per me nuovi. Sono felice, sì e no. Felice di essere libera di esplorare, triste di arrivare con troppa fatica a fine mese e di fare fatica a farmi intestare un contratto d'affitto. Un saluto, Rebecca. Esattamente quello. Certo, mi sembra che venga sottolineata proprio quella contraddizione che noi dicevamo. Allora noi dobbiamo stare molto attenti. Certe volte noi, come dire, i discorsi che facciamo, dobbiamo dire prima che li facciamo a che livello li facciamo. Allo stato di necessità la distinzione tra i lavori è minima. Quando si lavora per campare, tutti i lavori sono uguali. Sia che siano stabili che siano instabili, si lavora per campare. Se si supera quel livello, che non c'è più il problema di campare, di sbarcare il lunario, ma il problema è di fare un lavoro che ti realizza o di fare un lavoro che produce delle cose socialmente utili, no? Allora si può cominciare a fare quella distinzione lì, perché comincia ad esserci l'alienazione. È un lusso parlare di alienazione del lavoro quando si deve sopravvivere. Allora. senso. Infatti noi stiamo parlando di stati di crisi e credo che lo stato di crisi sia più facile, passami il termine, lo stato di disagio quando devi fare più lavori perché necessita la sopravvivenza, e quindi sia quelli che sarebbero adeguati a te, che non ti alienano, sia quelli che ti alienano perdono un po', aumentano la frustrazione, perdono un po' anche quelli belli il loro valore. Certo, infatti c'è chi dice, dal punto di vista filosofico, diciamolo, no? Dal punto di vista antropologico, c'è chi dice che uno degli effetti modo attuale, cioè quello capitalistico finanziario di produrre la ricchezza, no? Uno degli effetti è che tende a ridurre la maggior parte delle persone allo stato di natura. Siccome nessuno conta più sulla scelta del lavoro, no? In realtà la maggior parte di noi prendono il lavoro che c'è sul mercato in quel momento. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra cultura è una cultura che avrebbe, in qualche modo, tende ad animalizzarci, tende a ridurci allo stato di natura. Per esempio, un esempio di questo è la competitività, che fa somigliare il mondo a una giungla. Cioè non siamo più in una civiltà superiore che è uscita dalla giungla, ma tendiamo a tornare nella giungla. Allora, da questo punto di vista, per fortuna però non ci riusciscono a farci tornare nella giungla. Non ci riusciscono. Per fortuna certi livelli non si abbassano oltre un certo limite, soprattutto quando si è in un mondo secondo, terzo, eccetera. Sì, la civiltà si è sedimentata da un pezzettino. Esatto. Magari può brutalizzarsi un po'. Però la tendenza è quella. Per cui, per esempio, l'Europa, la più grande, la più antica civiltà del mondo, c'è la crisi economica, tende ad andare verso lo stato di natura. Ma lo stato di natura porta poi la ricchezza, il benessere, appunto, come in natura vince solo il leone, non stanno bene tutti. Bravissimo. Cioè, vincono i rapporti di forza. Per cui, alla fine, per esempio, un altro esempio molto interessante è quello della filosofia liberale, no? Su cosa si basa la voglia di lavorare nella impostazione liberale della vita, che è quella dominante? Si basa sull'idea che tu devi tenere vivi gli spiriti animali, cioè sull'idea che senza l'avidità, senza la paura che un altro mi tolga quello che ho, senza la voglia di vincere, non, uno perde la voglia di lavorare. Vabbè, sono le basi filosofiche del liberismo. Che non è mica vero. Non è affatto vero, però si può fare in modo che diventi vero. Cioè, nello stato di natura è verissimo. Oppure, sai perché diventa vero? Perché se io non sono una persona competitiva, una persona avida, una persona così, non corrispondo al ruolo e quindi mi... Certo. Emargino da sola. Vuol dire che se mi riduco nello stato di natura, cioè se io sono ridotto a prendere qualunque lavoro perché mi dicono se non ci vieni tu ce ne sono altri 50 che ci vengono a qualunque condizione, quando io sono ridotto a quel livello lì, come succede quando c'è la crisi, perché quando c'è la crisi è così. Certo. Quando ci sono tanti disoccupati, il primo lavoro che c'è, corrono, no? Io adesso ho riletto in questi giorni Furore di John Steinbeck, che è stato... Che è quel romanzo che illustra la crisi del 29 negli Stati Uniti, che è stato per la prima volta tradotto senza censure. Senza censure. Quindi lo consiglierei caldamente. No? Lì, per esempio, si mostra chiarissimamente come quando tu sei costretto per campare a lavorare, non hai altre scelte, non puoi dire questo lavoro sì, questo lavoro no, non puoi scegliere tra due o tre lavori, quando sei ridotto a quello non esiste più che tu possa in qualche modo parlare di alienazione, no, tu sei ridotto allo stato di natura, e se sei ridotto allo stato di natura tu sopravvivi. Chi è che sopravvive in quella situazione là? Sopravvive l'animale più forte. Sopravvive il più forte. Cioè si determina una situazione di adattamento e di sopravvivenza che è precisamente quella della giungla. No. E come se ne esce da questa crisi? Perché se io non voglio essere gettata nella giungla, che faccio? Sparisco da questa terra, da questo mondo che vuole una giungla invasiva, oppure ascolto posso superare questa, oltre ad ascoltare Radio Città Fujiko, posso superare, provare a vedere uno spiraglio, certo, di un tunnel credo... che vada verso la civiltà, non verso la giungla. Certamente, il punto di attacco è precisamente il seguente: che cos'è che fa sì che ci si riesca o che non ci si riesca a ridurre l'uomo allo stato di natura, cioè a farlo tornare ad essere animale o bruto, come diceva nella citazione da Preti: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. No, Dante. Com'è che si fa a fare in modo che l'uomo non si riduca dalla virtù e dalla conoscenza, cioè dalla bontà e dal sapere, non si riduca di nuovo a essere un bruto? Che cos'è che fa sì che ci si riesca o che non ci si riesca? Quando è che ci si riesce? È sotto gli occhi di tutti. Ci si riesce quando gli uomini sono presi a uno. Non ci si riesce quando gli uomini sono presi come umanità, cioè quando sono solidali tra di loro, quando concepiscono la loro vita come una vita comune, quando non ci si può riuscire. Oddio, questa ci si non riesce... l'ho capita. Non l'hai capita, te lo io, faccio... Io, beh, l'ho capita io. Non l'hai capita, te la spiego. Sì, grazie. Te la spiego molto semplicemente. Se 40... No, perché ti spiego, siccome abbiamo sempre parlato di reti di supporto, abbiamo sempre parlato di comunità, adesso mi dici uno a uno, sono rimasto un attimo spiazzata. No, non hai capito. Infatti. Non hai capito. Te l'ho detto che non ho capito. Non hai capito, sono stato troppo rapido. Non mi sono spiegato. Allora, il punto è, quando è che ci si riesce a trasformare in bruti le persone? Quando si prendono a uno. Ah, ecco, ok, scusa, avevo capito esattamente il contrario. No, quando si prendono a uno, no. Quando sono comunità, non ci si può riuscire. Ok. Allora il problema è fondamentalmente questo, il problema è fondamentalmente, cioè come dire, far progredire un'idea di umanità che è un'idea non individualistica di umanità, ma la possibilità di collaborare, di condividere, di farsi ispirare dagli altri, di non essere dominati dal proprio interesse individuale, di non essere barricati nella propria vita personale, ma di essere aperti agli altri, l'empatia, la simpatia, la collaborazione, la solidarietà, la costruzione di un mondo comune e così via. Tutto questo è l'ostacolo vero alla brutalizzazione della vita. Senza di questo la brutalizzazione della vita riesce, e infatti nel mondo di oggi perché riesce la tende a riuscire la brutalizzazione della vita, perché si fa in modo che ciascuno sia prigioniero del proprio interesse individuale. Tra l'altro si può scoprire che il compimento riesce meglio. Certo, si può scoprire che il compimento riesce meglio, anzi si può scoprire ancora di più che non importa il compimento, ma la cosa più bella non è arrivare al risultato, ma stare insieme con gli altri per arrivarci al risultato. Ecco. E adesso come facciamo con questo messaggio? Next time. Se lo esauriamo in 2 minuti. Allora, pietà, dire che la civiltà europea è la più antica, integralismo cristiano. Io lavoro da tempo, ma per respiri centrifughi. Ma o per il pane o per il mutuo. Parliamo dell'applicazione razionale della funzione al lavoro, non di Aristotele. Va bene, direi che è troppo difficile per esaurirla questa volta. Esatto. È troppo difficile perché bisogna, come dire, decifrarla, rifletterci, esatto, e così via. Quindi, come dire, grazie per questo messaggio, perché è un messaggio bellissimo. È un messaggio su cui dobbiamo soffermarci. Va bene, lo teniamo per iniziare la prossima puntata, anche perché non abbiamo mica estinto tutto l'argomento. Sì, assolutamente. Noi intanto mi sa che dobbiamo salutare il professore. Mi sa anche a me. Grazie a te. Grazie a tutti. Diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo, mentre tu ti togli le cuffie e corri verso il tuo appuntamento. Noi chiudiamo la trasmissione, Willy. Mettiamo un brano. Poi potremmo rientrare con una sorpresa. Ah, ecco. siamo arrivati ai saluti noi col nostro Oltre la crisi. Da dove ripartiremo la prossima volta? Da un SMS molto difficile, fra l'altro. Noi affrontiamo tutto. Sì, assolutamente. E a questo punto non ci resta che salutare. Quando diamo appuntamento? Ricordiamo la mail, così se vogliono scriverci in settimana, amici di rivivere @gmail.com. L'appuntamento è mercoledì prossimo alle 13. Ho fatto una domanda facile. Stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Oltre 103.1. la crisi. Ciao. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.